B. Mina e le fotografie. 1. Ascolta la seconda parte del dialogo. Hai sempre in testa le fotografie, i paesaggi, ma non hai mai altri pensieri? No. Non hai la macchina fotografica digitale? No, non ce l'ho. Ho questa macchina fotografica da molti anni. È una macchina molto buona. Non ho bisogno di una macchina digitale. Ho solo bisogno di batterie. Ah, ecco la tabaccheria. Buongiorno. Buongiorno. 2 batterie piccole per questa macchina fotografica. Ecco a lei. Sono 5 euro e 50 centesimi. Prego. Ecco il resto. Grazie. Arrivederla. Arrivederla e buona domenica. Grazie. Anche a lei.